Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM 236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E alla Digos, che non devono obbedire a qualsiasi ordine, perché quando una legge è sbagliata ha il dovere di non accettarla, perché se fanno una legge domani mattina su una legge razziale, cosa facciamo? Diventiamo tutti razzisti perché siamo a norma di legge. Allora dico alla polizia, per una volta disobbedite, per una volta, e giratevi una volta dalla parte giusta. Per una frase del genere rivolta alla polizia e ai carabinieri che non devono più proteggere i politici, pronunciata davanti ai forconi. Il signor Grillo è stato messo sotto indagine e poi altre procure chiedono condanna a 9 mesi per Grillo per un affare che riguarda i notab, perché avrebbe rotto i sigilli di una casa dove non doveva entrare, poi è uscito con le manette, facendo il gesto delle manette. Guardate, a me di solito quando entrano in campo i magistrati, sono quasi sempre dalla parte di chi viene accusato. Ovviamente dipende da quale tipo di accusa. Però francamente pensare, no, che l'appello alla polizia sia una roba, secondo me è una follia, ma che sia una roba, no, da codice penale, da tribunale, ecco, quello no. Su questo sono dalla parte di Grillo. Poi non so che ha fatto, si è rotto i sigilli di una casa dove non poteva entrare, ecco, in Val di Susa. Intanto comincia a dare l'informazione corretta, perché non era una casa, ma era quella famosa baita in Val di Susa. Ma va bene, 9 mesi, mi sembrano troppi, la richiesta di 9 mesi di condanna, però va bene. Io dico solo questo e mi sono già piovuti addosso. Di la tua banalità. Le della rete. Di la tua sia banalità. Sia esso Cesare Previti, dimmi. Sia esso Marcello Dell'Utri, avanti, ecco, ossia la banalità. Esso, ecco. Ossia esso il signor Beppe Grillo. Ecco, Beppe, ecco la banalità. Come lo chiamano? Arriva la banalità. Come lo chiamano? Amici. La magistratura faccia il suo corso. Ma madonna mia, ragazzi! Che originalità! Che cosa originale! La magistratura faccia il suo corso, mamma mia! C'erano migliaia di persone qui, non centinaia. Ci sono intoccabili, ma, caro Beppe. Vabbè. C'erano centinaia di migliaia di persone all'ascolto che aspettavano una cosa, un caro pensiero Beppe. Originale, un caro pensiero Beppe. Nuovo, invece no. Non la magistratura faccia il suo dovere. Non c'è l'accerchiamento delle procure contro Grillo. Non c'è. Ecco. David? Lo so. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco. No, io sono no, a favore. Di... La banalità merita un baffanculo. Allora, fermi tutti. Voglio dire al signor Mandarà una cosa. Signor Salvo Mandarà, attivista 5 Stelle, ospite ieri. Scusa, ma non è che uno può dire... A un certo punto ha detto, ho visto Cruciani che parlava con la moglie e con la figlia. Ma adesso... Questo ho notato anch'io, sì. Ma si facesse un paio di cazzi suoi, no? Signor Mandarà. Ma perché ha dovuto twittare questa cosa? No, ha twittato, l'ha detto, là, sul suo sito web. Cioè, sì. Ieri è stato nostro ospite, poi ha raccontato quello che è successo qui. Nella sua televisione? Sì, nella sua televisione, su YouTube, eccetera, quello che vuole. E perché ha dovuto dire questa cosa? Senti. Ho assistito a una chiamata Skype di Cruciani con la moglie e la figlia, quindi veramente si è stabilito proprio un contatto umano. Ho assistito a una telefonata Skype. Va Mauro contro Briatore, grande duello ieri sera. Ovviamente io sono dalla parte di Briatore 100%. L'ho vista molto agitata, molto rossa. Sì, sono incazzato, mi succede. No, molto rosso, no, molto rosso. Molto, Mauro. Molto rosso. No, come dire... No. Allora, regista, prima di tutto lei non sa chi sono io. Sì che lo so. La mia famiglia... È un personaggio pubblico. No, mia mamma e mio papà erano insegnanti elementari, eravamo tre in casa, per cui noi non abbiamo mai sguazzato nel loro. Sì, anche la mamma e il papà di Berlusconi, le sono le storie dei milionari. No, adesso le so tutte, non ce ne fosse uno che è nato ricco, mai! No. C'avevano tutti i genitori poveri, ma guarda te! Anch'io c'avevo genitori poveri e sono rimasto così. Benissimo. Non mi lamento, ma non ce l'ho lo yacht ancora. Eppure c'avevo genitori insegnanti. No, se lei... Addirittura no, uguale ce l'aveva. Cioè, guarda, se lei... il premio alla propria. No, se lei vuol fare il clown, lo faccia. Però ma io sono un clown, ha capito? Allora, non sono un leader politico. Benissimo. Se Dio vuole. Le posso solo dire questo. Ancora Mauro Briatore. A differenza sua, io creo posti di lavoro. A differenza sua, i miei dipendenti non sono mai andati in cassa integrazione. E a differenza sua, io pago i nostri dipendenti più della media. E a differenza sua, se c'è qualcuno che ha un problema in casa, io lo so. Le devo accendere una candela? No, non deve accendere io niente. Io credo che la sua ricchezza dipende fondamentalmente dai suoi dipendenti, per cui se li paga, e li paga bene, non fa altro che il suo dovere. Carlo Marx il Capitale, una citazione questa qui. Va bene. Sicuramente lei guadagna più dei suoi dipendenti. Vai. E di parecchio. Il dibattito è interessante, direi un po' retro, ecco. Sì, è retro. Ma non. Ma qui sono retro i diritti. I diritti sono un dibattito retro da fare. La parola di diritti. Mamma mia, Mauro, mamma mia. Ma te credo che guadagna più dei suoi dipendenti, Briatore? Ci mancherebbe altro. E dai, Mauro. È un imprenditore. Non capisco perché gli stanno sulle palle i milionari, i ricchi. A Mauro gli stanno sulle palle che gli guadagnano un sacco di soldi. Giustamente Santoro, che anche lui guadagna un sacco di soldi, ha detto vabbè, mi sembra un dibattito un po' retro. Abbiamo già un ospite collegato, un grandissimo ospite, uno che vuole una cura da cavallo per l'Italia, amici miei, una cura da cavallo. Prima però Prima però. No, prima niente, va. È con noi Edward Luttwak. Buonasera. Professore, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Senta, professore, mi dice una cosa. Tutti arrabbiati con i diritti umani violati nei confronti dei gay e dunque fanno tutti un po' gli schizzinosi su queste Olimpiadi, no? Attaccano Putin, poi ovviamente ci fanno anche gli affari con Putin e se ne fottono dei diritti dei gay in Russia. Lei che pensa di questa storia dei diritti umani violati in Russia sui gay? Beh, io ho un problema con le Olimpiadi in genere, perché dallo sport si è creato un enorme macchinario, sì, eccetera. Però così è la situazione. Sì. Le Olimpiadi sono diventate una specie di mega atrocità multimediatica, però in questo istante, sì, dobbiamo pensare a tutti i giovani atleti, sì, che si sono sacrificati per mesi, per anni, per essere lì finalmente alle Olimpiadi. Sì. Hanno sacrificato bere la birra, andare al cinema, eccetera. Sì. Sono un grande numero di questi giovani che, sì, si sono impegnati. E dunque? E questo io credo è il momento di essere lì, applaudirli, incoraggiarli, sì, e lasciare stare tutte le polemiche. Però forse è arrivato il momento di abolire questo enorme macchinario. Abolire le Olimpiadi, dice lei. Ma come abolire? Ma sì, ha ragione lui. Un'enorme macchina che crea solo imbarazzi, difficoltà, eccetera. Ritorniamo alle competizioni atletiche separate, che non sono così montatura. Ritorniamo alla sostanza. Ma i diritti, a lei interessa questa storia dei diritti umani, professore? Sì, interessa la storia dei diritti umani, perché quando si vanno a fare Olimpiadi in paesi dove una persona può essere arrestato per qualsiasi ragione e gli, sì, possono rompere la mascella, poi lo possono mettere in una cellula senza curare questa mascella rotta e poi tutti uscire tranquilli e felici, è veramente un problema fare Olimpiadi in paesi. Ecco, ma la Russia viola diritti umani per quello che riguarda i gay, secondo lei? Ma i gay non lo so, ma viola i diritti umani in Russia. Sono violati non tanto perché Putin, sì, per sveglio la notte vuole fare male alla gente, ma perché è la normale prassi. La, sì, normale prassi. C'è il famoso caso di questo Magnisti, l'avvocato, che, sì, è andato lì e ha scoperto un'enorme truffa fatta proprio da... Cioè, non si, secondo lei non si dovrebbero fare le Olimpiadi? È morto in prigione perché, sì, non hanno permesso che prenda la medicina di quello. Non si dovrebbero fare le Olimpiadi e tantomeno in Russia, giusto? Sì, esatto, è non esattamente così. Però siamo tutti peccatori, però sono un'enorme montatura e dentro questa enorme montatura ci, sì, sono questi giovani, sì, che sacrificano, sì, la loro vita per fare competizioni. Che facciano le competizioni, ma che siano separate sport per sport. Sì. Così che la cosa diventa molto più sportiva e molto meno macchinosa. Senta, ma mi dico una cosa, è davvero convinto che l'Italia per salvarsi deve licenziare un po' di dipendenti pubblici? Quanto ha detto lei? 500.000, 750.000, no, quanti? Senti, non devo dirlo io, di fronte a tutti ci sono 19 milioni di disoccupati oggi nell'Unione Europea. Sì. E io non devo dire niente, basta vedere l'Inghilterra. L'Inghilterra, con l'attuale governo, che è un governo di coalizione, ha semplicemente agito, sì, per rilanciare l'economia. Sì. Come hanno fatto? Hanno tagliato le tasse. Sì. Come hanno tagliato le tasse? Perché hanno licenziato 500.000 di dipendenti pubblici, hanno scoperto che non fa nessuna differenza, sì, nel funzionamento del paese. E in Italia quanti bisogna? Però con risparmio hanno subito tagliato le tasse sulle imprese. Hanno tagliato le tasse ai più ricchi, hanno tagliato le tasse ai più poveri, sì, e hanno rilanciato l'economia. Quindi tu licenzi 500.000 di burocrati in Inghilterra. E in Italia quanti? Invece di aumentare la disoccupazione di 500.000, sì, è scesa da 1.500.000. Io ero a Londra ieri, sì, e ci sono laureati italiani che fanno i camerieri a Londra, sì, perché c'è molto lavoro, c'è molto lavoro. Le fabbriche a Swindon sono passate lì per caso, sì, mentre la notte erano illuminate, fanno 3 turni. Cioè, tu in Italia, senza chiedere permesso a nessuno, sì, basta tagliare la spesa pubblica drasticamente, lo stesso giorno tagliare le tasse, sì, e abbassa il... Scusi, VAT, quanti dipendenti pubblici dobbiamo... Roba, sì, e i produttori si mettono a lavorare. Quanti dipendenti pubblici dobbiamo tagliare, scusi? Non lo so, io non sono un esperto. Ma che ne so, faccia una cifra. L'Inghilterra, che ne ha molto meno, ne ha licenziati 500.000. Vabbè, noi di più allora. Milioni. Noi di L'Italia, più. A occhio croce direi 750.000, ma l'azione britannica, sì, è stata fatta perché c'è un'emergenza e non volevano avere disoccupazione i giovani inglesi disoccupati. Ho capito, un attimo professore, un attimo solo che abbiamo il traffico. Davide è timido, è tenero, è un orsacchiotto. Beh, cari amici, il mitologico Edward Luttuak in collegamento con noi propone di abolire le Olimpiadi e io sono assolutamente d'accordo, basta con questa baracconata. Ma mi sembra una follia comunque. Ma ha ragione lui. Abolire le Olimpiadi, non abolire gli sport, abolire le Olimpiadi, perché sono sempre fonte di corruzione, casini nei paesi, eccetera, eccetera. E poi ormai li vincono solamente, vengono ospitati solo in paesi ultracorrotti che pagano fior di quattrini, vero Luttuak? Fior di quattrini, vabbè, comunque. A parte questo, poi dice 750.000 dipendenti pubblici meno in Italia. Ottimo. Scusi Luttuak, perché ce l'ha con il Molise lei? Noi il Molise è semplicemente il caso estremo, sì, di questo sfruttamento amministrativo, sì, degli italiani che lavorano, perché lì ci sono 300.000 abitanti, sì, una regione, 2 province, sì, due giunte provinciali, sì, 105 comuni. Su 300.000 abitanti, sì, ci vivono un numero straordinario di amministratori che fanno pochissimo, solamente prendono i propri salari, mangiano la pasta e vanno a dormire. 300.000 abitanti hanno bisogno di un sindaco e 12 consiglieri. Ma professore, ma scusi, ma è la regione di Di Pietro poi, professore Luttuak. Per caso. Eh sì, per caso, che vuol no, dire? Però professore, no, mi scusi, guardi, io sono veramente sorpreso, non è polemico, sorpreso che i giornali italiani non sono pieni di dibattiti sull'esempio britannico. Gli inglesi avevano disoccupazione giovanile sì, intollerabile, però, come in Italia. Sì. Meno che in Italia, ma simile. Sì. Cosa hanno fatto? Hanno licenziato milioni di pubblici dipendenti. Ma no, 750. Alcuni risparmio, hanno tagliato le tasse e oggi c'è 1,5 milioni di gente che hanno più lavoro. Parenzo, che c'hai? Dimmi. Però che c'è, scusi, che professore. No, volevo intanto abbracciarla fortissimo perché io voglio veramente bene a Ludwig, ma volevo chiederle, dirle questo, dopo quello che lei ha detto sui dipendenti pubblici in Italia, lei sa che la signora Camusso della CGIL sta già saltando sulla sedia, perché voglio dire, lei non è che può adesso dire... Capisce che i sindacati CGIL, in Italia... CGIL? La CGIL è un'associazione sì? che contiene sì. sempre più amministratori, sì. dipendenti pubblici Appunto. E sempre meno operai. Operai, lo sì. scopo di licenziare gli amministratori è di ridurre le tasse sugli operai. Il CGIL dovrebbe anche rappresentare sì. gli operai. E invece no. Che razza di sindacato è che ma difende come? Gli amministratori pubblici giusto. I cui salari si stanno mangiando la possibilità di dare lavoro alla gente? Scusi un attimo, professore, ma sono dei parassiti lei, praticamente. Sono dei parassiti quelli della CGIL, dice lei. Ma no, cos'è l'aritmetica britannica? L'aritmetica britannica è sì. che in realtà i pubblici dipendenti sono costosissimi. Sì. Quando hanno licenziato mezzo milione di loro sì. e hanno girato i soldi certo. per tagliare le tasse sì. e hanno creato posti di lavoro per 1,5 milioni, è perché in realtà la libera impresa, chi lavora, chi va a lavorare, eccetera, costa di meno che l'amministratore che sta lì a bloccare. Intanto in Italia, professore, no, ma ho capito benissimo. Professore, intanto in Italia Berlusconi, incredibilmente, no? Interdetto, vola nei sondaggi, ha letto, sì. È immortale quest'uomo, immortale. Mi dispiace, guarda, io spero che la gente fuori dall'Italia non se ne accorge. Perché? Perché quando vedono che l'opinione pubblica applaudisce sì. una persona sì. che è stata condannata nel sì. terzesimo o quarantesimo grado, non so cos'è, per frode fiscale sì. sulla base di documenti, non di testimonianze sempre là. Cioè dovrebbe stare in galera, secondo me. Documenti, lei. Non sulla base di parole oggettivi, sì. ma di numeri. Sì. Il fatto che gli italiani lo seguono per qualsiasi ragione vuol dire che sono non vuol dire che coglioni, non c'è assolutamente nessuna etica. Sono coglioni, cioè, dai, professore, cos'è l'etica? L'etica è che anche se la legge me lo permette, io sì. non lo faccio perché è disonorevole. Sì. È disonorevole, è disgustoso e distrugge la morale pubblica. Come si fa a applaudire un condannato per frode fiscale? Ma gli italiani se ne fottono, professore. No, mi dispiace, non posso credere che l'Italia è diventata una zona post-etica. Ma questi, in Italia non c'è un minimo... No, non è possibile. Ho capito, questo c'ha il 37... pare che abbia un sacco di voti nei sondaggi, la coalizione, che ancora stanno lì. Senta, ma Renzi come è visto invece in America? Renzi? Beh, Renzi è stato notato... insieme con Letta come un esempio sì. di nuovi politici che arrivano sulla scena. Allora? Io personalmente ho notato una sola cosa, che Renzi era l'unico politico sì. che perlomeno per qualche giorno, forse più lungo, sì. ha detto che la cancellieri deve lasciare il governo. Sì. Il fatto che è ancora lì ministro della giustizia è più o meno uguale a questi che votano per Berlusconi. Cioè un ministro della giustizia sì. che telefona gente accusata di frode, va cacciata, gente che hanno dato milioni al suo proprio figlio e poi dice l'ho fatto per carità umana, sì. questo è credibile su Marte forse. Senta una cosa, professore, mi dica un'ultima cosa che dobbiamo concludere. Si è fatto notare qui perché ha fatto la dichiarazione che se ne deve andare, cioè che Renzi qualche frammento perlomeno questo. Senta, ma Grillo che vuole l'impeachment di Napolitano, casino alla Camera, i suoi deputati eccetera. Guarda, io devo confessare che Grillo fa molte cose, dice molte cose. All'inizio era veramente abbastanza preoccupato del fatto che lui segue, non so, un suocero iraniano che alle solite idee iraniane che invece... sono grandi congiure, eccetera, eccetera. Però adesso vedo un altro fatto, che cioè? Grillo è quello che sta salvando la classe politica italiana. Addirittura. Perché lui ha catturato lo spirito di rinnovamento, ha catturato lo spirito di quelli che vogliono cambiare e l'ha convogliato in una specie di imbuto in una grande bottiglia del niente. Grillo, un attimo solo, professore, che ho la pubblicità, un attimo solo, professore. Se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene. Il timido, Davide, tranquillo, sono cose belle. Benvenuta nel mio spazio sotto salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso tu si corica. Berlusconi, faccio un'osservazione, dico che nonostante tutti i tentativi omicidiari e paraomicidiari è là, eh? Quindi voglio dire, siamo di fronte comunque ad una sorta di, come posso dire, cioè di Highlander, diciamo, Highlander della politica che riesce a resistere, sì. È come se qualcuno lo accoltelli quotidianamente, ma lui riesce comunque a resistere. Beh, l'ultima è di Francesco Paolo Sisto, caro Parenzo. Berlusconi come un Highlander della politica. Briatore è sempre più renziano, eh. Ultima speranza che c'è rimasta. Briatore. Io credo che se Renzi vince, Renzi è l'ultima speranza che abbiamo. È l'ultima speranza che abbiamo con Berlusconi che devono fare le regole, i due grandi partiti. Io credo che Renzi ha la possibilità. Ma dobbiamo hope, dobbiamo credere in qualcuno, sì, perché sennò però, è l'ultimo che ci è rimasto. Hai sentito come dice hope, speranza, hope. Sempre con noi il professor Lutwak, gli facciamo sentire i titoli del TG3, l'ex TG comunista con 2M. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Andare al voto conviene a me, ma non conviene all'Italia, dice il segretario del PD Renzi, che aggiunge: non andrò mai al governo con Berlusconi. Non aspetterò 20 giorni, così Enrico Letta all'indomani della direzione del PD. Il premier guarda al voto sulla legge elettorale e lavora al rilancio dell'esecutivo. A Roma Alexis Tsipras, leader del partito greco Siriza, candidato dalla sinistra europea alla presidenza della Commissione. La linea Merkel porta solo povertà. La procura di Torino chiede di condannare Beppe Grillo a 9 mesi per una protesta notabile. Leader 5 Stelle indagato anche per istigazione a disobbedire alle leggi. Rinviato a giudizio a Torino il fondatore di Stamina, Davide Vannoni, l'accusa tentata truffa per un finanziamento da 500.000 euro. A Bollate una 15enne prende a calci una coetanea tra l'indifferenza dei compagni. Il tutto ripreso con un cellulare finisce su Facebook. Scatta la denuncia. Cerimonia inaugurale in Russia per le Olimpiadi invernali. Blindata la città di Sochi. La squadra della Germania sfila con la divisa arcobaleno. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Beh, professore, volevo subito chiedere una cosa. Vedi però i tedeschi. I tedeschi che hanno fatto i tedeschi? No, hanno sfilato con la cosa arcobaleno, ma in realtà. Hanno sfilato con le colori. A parte che non è detto che sia una protesta contro Putin, era semplicemente una divisa orrenda. Contro la Merkel. Era semplicemente con una divisa orrenda. E poi basta con queste buffonate. Se la Germania poi fa gli affari con la Russia, non devono rompere le balle sulla questione dei gay. C'entra? Sì, c'entra. Se pensano che gay sia un criminale, non facessero affari con lui. Stai, parli come Gino Strada, praticamente. Ma che magari al contrario, scusa. Professore, volevo capire una cosa, ma chi vota ancora Berlusconi in Italia? Lei come lo classifica? Come lo definisce? Lo definisce come una persona che ha priorità più alte della etica, cioè una persona non etica. Se tu voti Berlusconi, che è il diritto di ogni cittadino, vuol dire che non c'è nessuna forma di disonestà che ti causa problemi. Dunque perché sei un disonesto? No. Guarda, io non lo qualifico di una... È come non avere la capacità di sentire la puzza. Entri... entri in un posto puzzolente e non senti la puzza. Ho capito. Tutto quello che ci vuole in una democrazia non sì. è grande filosofia. Sì. È di semplicemente sentire la puzza. Quando una persona con i cancellieri è di fronte, puzza. E la corruzione è evidente, sì. le scuse patetiche. Nel caso di Berlusconi, la frode fiscale sì. è un furto contro ogni cittadino. E dunque puzza quando, pure Berlusconi. Sì, ecco, forse in Italia la gente paga moltissime tasse, sì. però si vantavano che non pagano le tasse, io sono troppo furbo, eccetera. Quando fai questo, veramente non paghi le tasse, rubi ogni concittadino. Però scusi, professore, ma se Berlusconi dovesse vincere un'altra volta, che succede? Guarda, ti dico una cosa. In America, sì. Berlusconi, frode fiscale, galera. Minimo 5 anni di prigione nella cellula e viene arrestato dopo il processo. Gli danno il tempo sì. per mettere le cose a posto e lui sarebbe in prigione per 5 anni. In prigione, sicuro? Minimo 5 anni. Minimo. Per frode fiscale. Cioè 5 anni se le fa tutte, dice lei, tutti. Sì, ma guarda che molta gente qui hanno preso 15, 20, 25 anni per frodi di questo tipo. Per cui stiamo parlando minimo 5 anni. E l'esenzione per l'età non esiste. La signora Leona Helmsley, sì. che pagava 800 milioni di dollari, sì. ha fatto 3 anni di prigione, aveva più di 73 anni, 3 anni di prigione perché non ha pagato su 5.000 dollari. Ma non è che erano 5.000 Scusi, però lei immagini una cosa. Lei ha detto, sì. ragioniere, io non pago questo, solo sì. i poveri pagano le tasse. Però scusa, Parenzo, immaginiamo un attimo una cosa. No, diciamo... ma scusami, ha ragione lui però, scusami. Perché vabbè, lasciamo perdere adesso. Sì, Benny Madoff, sì. Benny Madoff sì. che presso poco è coetaneo di Berlusconi. Madoff è tanti, 150 anni di prigione rapidamente. Sì. Bravo. Anzi, era ancora in circolazione però... 2 anni dopo, 3 anni dopo, non so cosa. Scusi, professore, un'ultima cosa. Ha ragione, professore. Sì, d'accordo. Però mettiamo questa ipotesi. L'anno prossimo in Italia si vota. Mettiamo che si vota. Vince la coalizione guidata da Berlusconi. Che succede? Succede che l'Italia sarà vista da fuori dall'Italia come sì. un paese post-etico, un paese non etico. Cioè, se tu puoi votare Berlusconi, vuol dire che l'etica non conta. Non conta. E che vuol dire che se trovi il mio portafoglio di fronte a te, tu milionario, comunque mi porti via i 3 euro che è nel portafoglio. Addirittura. Questo vuol dire. Questo sarebbe... ci sono... capisci? Berlusconi, io sono matematicamente sicuro che Berlusconi è stato la vittima di una persecuzione però? Da parte di procuratori della sinistra, di gente che lo odiava, sì. gente che lo indiviava. Io sono convinto che dei 44 processi, 45, sì, non so sì. cosa, molti non dovevano essere fatti. Però? Ma alla fine è stato preso per frode fiscale. Sì. E la frode fiscale è il furto contro ogni cittadino. E la maggior parte degli italiani sono meno ricchi di Berlusconi, sì. quindi tu rubi dai tuoi concittadini più poveri ed è una cosa che viene dovunque, vuol dire l'esclusione immediata da ogni forma di vita pubblica sì. e naturalmente va in prigione. Questa storia di non mettere gente in prigione quando hanno più di 70 anni è ridicolo. La gente oggi i 70 anni fanno il paracadutismo e Berlusconi dice perlomeno di avere fidanzati a 75 anni. Sì, quindi è vero. Può andare anche in carcere. Dovrebbe andare in prigione dietro le sbarre. Senta Luto, con l'ultima cosa, cioè, ma qui è bello questo, cioè, se uno può avere una fidanzata più giovane di 30 anni. E certo, anni, può anche andare in carcere. Questo è anche vero, questo devo dire. È assurdo questi sentimentalismi che bloccano il procedere della legge. Cioè, guarda che se io sarei un cittadino italiano oggi sì. e rubo una mela sì. e vado di fronte a un tribunale e vogliono condannarmi per furto, io dico su che base morale fate questo? Se Berlusconi visto è ancora che libero. Il vostro sistema permette, non mette neanche Berlusconi in prigione dopo 3 processi. Sì. 3 processi finalmente viene frode fiscale, doveva essere preso e messo in prigione. Il fatto che non è stato fatto, sì. Sai, oh, è povero Eto, è vecchiotto, così era primo ministro, eccetera, eccetera. Tutte queste cose non contano. Scusi, professore, un'ultima cosa, ma qualcuno dice che invece Grillo è un sovversivo, un eversivo, uno che vuole Grillo è il contrario, è quello che ha catturato la volontà di cambiamento. da gente riformista, gente che... Ma lei diceva che era come Hitler. Gente che era pronta a muoversi e agire in piazza, gli ha catturato questa cosa e l'ha convogliata nel sistema politico, l'ha messa in Parlamento e poi gli ha detto di non fare niente e quindi ha nullificato, neutralizzato, distrutto uno spirito di cambiamento che aveva anche sicuramente i suoi... dimensioni abbastanza vicine. Non è pericoloso o no? È pericoloso o no? È pericoloso o no, Grillo? No, è il contrario. Lui è il grande, è stato il grandissimo alleato della classe politica che non vuole fare niente. Ma perché gli americani non lo finanziano un po'? Si rifiuta neanche di guardare l'esempio britannico. Ho capito. L'esempio perché britannico gli americani non lo finanziano un po', Grillo? Politico europeo oggi. Va bene, grazie professore, grazie. A presto, grazie, grazie. Com'è che fa Lutwak, Davide? Guardi, noi pensa, voglio dire qui da radio di signor Squinzi, che è grande amico di America. Beh, il problema dell'Italia si chiama... Due problemi a Italia. Il primo si chiama CGL Camussi. Sì, il secondo Camusso. Si chiama Moschito Zanzara. Queste trasmissioni che lei fa da giorni, da mesi, anni ormai, in cui... Volgarità. In cui fa volgarità, dice parole spesso anche di cazzo, di volano molto spesso lì dentro, io sento, e io penso che per risolvere il problema Confindustria dovrebbe prendere tutti i soldi di questi zanzari e prendere e comprare con quei soldi una piccola bomba e chiedere a F-35 di signor Mauro, ministro signor Mari Mauro, e con un bomba tu vai sulla sede di CGL, quello con grandi bandiere rossi che puoi vedere anche, che sventola inutilmente su penno, su questo e sparare istituto, no, e sparare e buttare questi bombi. Va bene professore, avevamo interrotto il collegamento. Luca da Rimini. Luca, sì, buonasera, dimmi caro amico. Siete dottor Cruciani? Sì, dimmi. Sì, sono Luca Montanari. Ascolti, noi questi si occupano, questi politici che oggi discutono di legge elettorale, è un anno che ormai discutono di legge elettorale, no? Allora? Noi abbiamo un problema molto più grande, noi siamo dei viaggiatori che viaggiamo di notte. Ma lei è camionista? Sì, diciamo che lavoro per un'azienda di telecomunicazioni e sì, guido di notte. Guida di notte, adesso ci racconta quello che succede di notte sulle strade italiane. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. La zanzara che punge nel vivo. In Italia ogni tanto spuntano, amici miei, dei personaggi incredibili. Prendete questo Amedeo Amadeo, basta sostituire una E con la A e abbiamo il cognome. Amedeo, anzi, mi sbaglio sempre, Amedeo Amadeo. È il direttore generale di un ospedale, l'ospedale di Seriate, provincia di Bergamo. Signor Amadeo, Parenzo non lo sa perché non ha letto una mazza oggi. Come no? Ma da chi è stato nominato? Ma lascia perdere, è uno della destra, era di AN, ecco. È stato in Parlamento, eccetera. Ma lo sai che cosa ha detto oggi? Appunto. Sai cosa ha detto o no? Non lo sai. Assolutamente. E allora fammi parlare. Non lo sai perché non hai letto una mazza. Allora, il successo dell'ospedale di Seriate sono gli infermieri, ma solo quelli italiani. Qui non ci sono marocchine o rumene. Beh, amici miei, nel 2013 il nostro ospedale ha fatturato 1,5 milioni di euro rispetto al 2014. Anzi, rispetto all'anno prima. Lo dobbiamo a chi ci lavora, ai medici, certo, ma soprattutto i 1000 infermieri, molti dei quali formati nella nostra scuola professionale. Qui non ci sono marocchine o rumene. Dai su ragazzi, ma questo è il numero uno. Ma non lo hanno rimosso ancora questo? Qui non ci sono marocchine e rumene, solo infermiere italiane asseriate. Per questo l'ospedale va bene, per questo ci sono gli infermieri migliori, perché non sono stranieri, né marocchini né rumeni. Allora Luca. Sì, dottor Cruciani. Allora? Sì. C'è un cretino che mi scrive su Twitter. Aspetta un attimo, Luca, adesso arrivo subito. Un deficiente, un imbecille che mi scrive su Twitter. Ieri sera avete insegnato a tua figlia come si fanno, quello che a te piace tanto dire delle donne, sei un maiale. Continuamente mi scrive queste cose. Vorrei dire a questo signore che si chiama Sergio Bellone di andare serenamente a fare in culo. Luca, allora. C'è un problema, abbiamo un problema a Bologna, in quanto a Bologna diciamo che ci sono due zone dove sì. si pratica sesso di notte. Ma dove? Che dove... zone? Qui siamo passati da Luttwak al sesso di notte, Parenzo, ti rendi conto o no? Ti rendi conto o no? Dalle ricette del professor Luttwak sull'Italia, tagliare gli stipendi pubblici, il Molise che deve essere abbattuto, cancellato perché mangiano la pasta e vanno a letto, eccetera, eccetera. E Berlusconi che è fuori dal mondo, deve essere bandito da tutta la comunità. Deve andare in galera. Deve andare in galera e per 5 anni come minimo. A Luca da Rimini che ci dice che ci sono dei posti dove i gay abbor. Ma questo già lo sappiamo, Luca. Andiamo oltre. Che succede? Succede che i gay forse non trovano più terreno fertile nella loro zona. E sconfinano, diciamo che sconfinano. Fanno dei casini dove una volta, dove fino a qualche tempo fa ci stava, avveniva lo scambio di coppia di notte, dove c'erano le coppie, eccetera. Ma questo dove accade? In che zona? Di Grazia. Dunque, di Grazia, maestro, mi scusi, ma perché lo segnala a noi? Fiera. Diciamo che parcheggi fiera di che cosa? Di quale zona? Di Bologna. Di Bologna, parcheggi fiera a Bologna. Vabbè, ma esistono da sempre delle piazzole dove la gente si imbosca, non è che ci viene a raccontare queste cose. No, ma di Grazia. Dimmi, Parenzo, dillo. Ma no, dico a questo ascoltatore, di Grazia, mi scusi. Sì. Perché lo segnala a noi questa cosa? Questo non capisco. Perché, ad esempio, non ha pensato di chiamare Barisoni? Ma Barisoni non si può chiamare, non c'ha le telefonate in diretta. Vabbè, d'accordo, però perché ho chiamato una mail a lui? No, e poi in questo periodo è meglio che non ce le abbia, perché altrimenti verrebbe assaltato dagli anti-euro. Vabbè, Luca, noi vogliamo sapere un'altra cosa, però. Le piazzole dell'autostrada. Lei va sull'autostrada? Sì, ma questo no? È subito fuori dal casello di Bologna Fiera. Fuori dal casello? Uscendo dal casello si accede direttamente ai parcheggi Fiera. Hanno fatto È diventato un covo di gay incalliti che tentano di adescare le persone, giusto? Sì, lì ci sono dei parcheggi dove di sera, il mercoledì e il venerdì ci sono le coppie. Sì, vabbè, ci sono le coppie, ma le danno fastidio? No, sono i gay che danno fastidio. Ma perché danno fastidio i gay? Scusi, perché? Danno fastidio perché creano un casino, poi dopo la gente inizia a chiamare la polizia e tutti se ne vanno e insomma... Ma lei che ci va a fare là? Scusi, che ci va a fare là? Ma io vado per divertirmi, chiaramente. Cioè che va a fare? Scambio di coppie? Che va a fare? Sì, no, non scambio di coppie, ci sono delle coppie che cercano singoli, vabbè, delle coppie con marito... Siamo... Cioè lei va, si va ad offrire alle coppie? Fermi tutti, che succede? Notizia Parenzo? Flash, dimmi, bomba. Dimmi, che succede? Notizia bomba. Berlusconi sì. sul Frecciarossa, sì. Roma-Milano delle 19, sì. con Francesca Pascale, Dudù e tutta la sua scorta. Volevano occupare un intero vagone del treno, sì, ma che è sta poi cazzata? È scoppiata una mezza rivolta, attento, sì. Sì. e si è arrivati a un'altra soluzione più democratica. Cioè quale? Ma questo chi te lo riferisce? L'agenzia? Che cos'è? Questa qui è una notizia. È una notizia, va bene. Dunque, Berlusconi, la notizia che dai è questa, magari è già uscita sull'agenzia, manco lo sai. Allora, Berlusconi, che succede? Che succede, Berlusconi? Sul Frecciarossa, Roma-Milano delle 19, sì. con Francesca, Dudù e tutta la scorta. Ma perché non sono andati con l'aereo privato? Comunque, vabbè. Voleva occupare una carrozza intera in prima classe. Sì. Dopo un po' di contrattazione con il capotreno e i passeggeri si è trovato la soluzione più democratica. È un flash di Dago Spia di poco fa. Ah, ecco, appunto. No, io do la fonte, però ti dico amici che... del Frecciarossa, chiamate la Zanzara, ecco. Raccontateci cosa accade in quel treno, cercate di forzare le porte, abbordate Berlusconi. Ci chiama il signor Ben-Hur da Lecce, cioè, so io uno che si presenta Parenzo come Ben-Hur, il signor Ben-Hur. Chi diavolo è lei? Pronto? Sì. Buonasera, dottor Cruciani. Sì, lei perché si presenta come Ben-Hur, scusi? No, il cognome Ben-Hur, sono di nazionalità marocchina, no? Ma scusi, lei si chiama nazionalità marocchina, ma perché che bello? Non è che per forza i marocchini, per forza che bello? Cioè, non lo credo, che bello! Cioè, perché non è come che uno è marocchino che è bello, vabbè. A Radio Popolare c'era una trasmissione quando stavo a Milano che ascoltavo dove parlavano sempre di diversità e ogni volta che interveniva un migrante che bello, ci ha chiamato l'immigrato, vabbè. Ah, che bello, la testimonianza del migrante. Ma perché la testimonianza del migrante? Io voglio adesso introdurre questo: ogni volta che chiama un migrante dirò, ah che bello, raccontaci anche una ricetta dei tuoi territori per assaporarne la cultura. Adesso fai ridere. Ecco, appunto, signor Ben-Hur, scusi, lei come fa di cognome? No, Ben-Hur. Ben-Hur, cioè come Ben-Hur quello del film? No, con la H, 2 N-O-U-R. Ah, Ben-Hur, ma l'hanno scritto male qui, Ben-Hur, ignoranti, capre! Ben-Hur, allora? No, io dico da 30 anni che vivo in Italia, E allora che vuoi da noi? Bravo, fratello italiano. parlavo, volevo intervenire sulle tasse. Perché sulle tasse? Ma qui c'è scritto davanti gay. Ben Hur vuole parlare dei gay, non è vero allora? Sì, ma ho cambiato versione. No, no, no, mi pare dei gay, ma quali tasse? Che me frega a me? Allora, signor Ben Hur, marocchino, ma lei che fa, l'autotrasportatore? Sì, faccio il camionista. Che mi dice su sti gay in autostrada? Ormai abbiamo avviato... No, stanno la mattina e la sera, hai capito? Danno fastidio quando ti fermi, fai una sostina, ti viene a bussare, magari fa qualche bisognino. Dico, ma quale, di notte o anche di giorno? Di giorno, ma forse danno il cambio, non lo so. Ma danno il cambio, perché... anche di giorno, anche di giorno vengono. Ma anche di giorno con le macchine sulla piazzola, ore, ore, ore stanno lì. Ma io veramente è una cosa incredibile questa parenza. Abbiamo, ma non vanno a lavorare. Abbiamo aperto le gabbie. Le gabbie nel senso, come dire, buono del termine, non nel senso negativo. E ormai arrivano testimonianze su testimonianze, l'inchiesta si sta ingrossando, tu devi partire immediatamente. Beh, se tu dici l'inchiesta si ingrossa diventa anche equivoco. Come... No, devi partire immediatamente. Uno che si mette in mezzo all'autostrada, poi abbassa i pantaloni, mandaci Parenzo perché visto che lo vuoi mandare sull'autostrada, col piazzole di sosso quando ci va la prendono. Luca da Brescia, buonasera. Buonasera. Fra poco un ospite, restate lì fermi, immobili, la zanzara è appena iniziata. Dai che stasera sono in forma, su Luca, dai. Allora, sono ancora il generale dell'esercito di Parenzo perché ieri sera oddio, sto generale, dai. Generale dell'esercito di Parenzo, che vuoi, dai. Vorrei mandare molto cortesemente a fare in culo il vostro direttore Roberto Napoletano. No, però scusi, abbia pazienza, scusi. Non ma è che, pazzo. Adesso non è che lei può ma fare... Pazzo. Scusa Luca, ma perché? Perché? Povera, che ha fatto? Non ha fatto niente. Sta violentando la zanzara con continue interruzioni. Ma non è che lei può... A parte che non è colpa sua, e poi non è che può mandare a fare in culo il nostro direttore, ci mette anche in difficoltà. Noi siamo come lei dire... Lei è pazzo! Adesso, Parenzo, non fare il difensore per non forza. Non c'è nessun allora, la notizia è questa. L'esercito di Parenzo, impersonato dal generale Luca da Brescia, chiama la zanzara e dice io voglio mandare a fare in culo il direttore della radio Roberto Napoletano. Di più. Noi ovviamente prendiamo le distanze da lei, Luca. Certo, è ovvio, prendiamo tutte le distanze. Io vorrei il suo numero e lo di scrivo. Cellulare. No. Vorrei il numero ma di cellulare del direttore. Beh no, adesso questo francamente per chiamarlo ogni 5 minuti e dire traffico, borsa, hai l'alitosi, puoi cadere i denti. Tutte quelle pubblicità qui che manda durante la zanzara, no? Che ci fanno no, ma io sono anche d'accordo con lei, però se lei dovesse avere il telefono del signor Napoletano e mandarlo a fare in culo, cioè non, primo non ci fa un favore, secondo non risolve nulla, capito? No, ma il punto è appunto, la soluzione a quella cosa sarebbe creare due zanzare separate, l'applicazione per smartphone e tablet dove una zanzara a pagamento non... Si sente la pubblicità, voi continuate a parlare e noi ascoltiamo tranquillamente. Chi non vuole pagare ascolta la pubblicità, semplice. Vabbè, adesso Luca, lei la fa facile così, però è partito male, è partito molto male con quella sua proposito, con quella sua intenzione. Non voglio nemmeno ripetere, dai, non ripetiamo. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. È l'invasione dei froci. Grillo fa un appello alla polizia per non proteggere più alle forze dell'ordine, per non proteggere più i politici e finisce sotto indagine. Va in Val di Susa, commette forse un reato perché... No, apre le porte di una di un luogo, di un casolare, di un non so che cosa, Parenzo, e non... È il bivacco che è a pochi metri dal cantiere. Ha violato i sigilli. Non si capisce perché i ragazzi in OTAV debbano essere inquisiti e il comico genovese no. Ma no. Su questo ti posso anche dare ragione. Io solo questo. Però la questione l'hai dell'appello alla polizia, ridicolo. L'ho dai. Detto prima, quella è una stupidaggine, quella è una contestazione idiota da parte dei PM, idiota. L'altra cosa invece, quella del occupare il bivacco, per quello è un io sono stato lì quando facevo per la 7, sono stato lì in quel bivacco. Sì, quello sì. Era posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria perché le persone che erano lì dentro asserragliate impedivano che il cantiere cominciasse. Sentiamo il professor Cacciari che dice che la compravendita dei parlamentari esiste dagli assiro babilonesi e dunque Grasso ha sbagliato quando si è costituito parte civile. Ha fatto bene, secondo lei, Grasso? No, io non sono affatto d'accordo. Perché? Perché la compravendita di parlamentari è una cosa che fa schifo, ovviamente, ma che è successa nella storia politica mondiale, dagli assiro-babilonesi in poi, continuerà a succedere. Anche Cacciari è a favore del patto Renzi-Berlusconi. In un altro momento, diciamo la verità, avrebbe detto che la compravendita dei parlamentari è una cosa schifosa, vergognosa, eccetera. Ovviamente è tutto da provare, eh? Ma abbiamo con noi il senatore del nuovo centrodestra, l'amico Carlo Giovanardi. Buonasera. Sì, buonasera. Come sta? Come sta? Bene, grazie. Le voglio fare sentire subito una cosa, Giovanardi. Davanti ai cancelli delle scuole italiane, io lo dico perché lei se ne renda conto, io sa che... per me le sue opinioni sulla droga e su altre cose sono assolutamente legittime, spesso anche travisate quando lei ha espresso delle opinioni. Però la realtà è questa, quella dei ragazzi che dicono davanti ai cancelli delle scuole: qui ci facciamo tutti le canne. 8 ragazzi su 10 dicono loro, 9 su 10 qualcuno dice, tutti si fanno le canne. Cioè c'è una sorta di legalizzazione di fatto. Cioè, allora facciamola direttamente, no? Un attimo. Su 10 persone che conosci qua dentro, quante fumano? 7 su 10 sicuro. 8, 8, 9. 8. 8 persone fumano canne, sì. Su quelli con... Regolarmente? Sì. Perché è facile trovarla? Sì, diciamo che è facile. Basta conoscere la persona giusta. Esatto, sono contatti, conoscenze. Questa è la realtà, però mi riferiscono, senatore Giovanardi, che lei stava firmando gli autografi del suo libro. Sì, è in tema, balle, tutte le bugie che hanno raccontato agli italiani. E questa... Scusi, quante persone vengono a firmare gli autografi del suo libro, senatore? No, quelli che prendono il libro dopo, che chiedono come sempre quando viene dedicato il libro, ma balle, questo siamo in tema perché quello che hanno raccontato questi ragazzi è una balla cosmica. Ma no, non è una balla, è la realtà, davanti alle scuole, no, 8 su 10. No, assolutamente la realtà. In Italia abbiamo lo 0,1% della popolazione che ha problemi cronici con la droga, il 99,9% no. Abbiamo fra il 3 e il 4% della popolazione che magari una volta nella vita, come Fine e Casini, che l'hanno ammesso, hanno fumato una canna. Sì. Il 96% della popolazione italiana non ha mai avuto contatti con ogni tipo di droga. Loro stanno dicendo che i ragazzi di oggi, quelli della loro età, erano interviste a ragazzi di 17, 18 anni, 16 delle superiori, dicono: nella mia classe 8 su 10 se fanno le canne. Poi magari se la faranno una volta a settimana. Ma totale, ma neanche i fumatori hanno quel livello, perché una classe ci possono essere 3 fumatori su 10, ma si immagina, se sono 3 fumatori su 10 di sigarette, ce ne sono 8 di canne. Il problema di molti di quelli che danno le interviste è che fumano le canne, e come si sa, ed è notorio, ma non lo dico io, lo dico i tossicologi, le canne hanno anche degli effetti, purtroppo, sul modo di ragionare o di star ragionare dei giovani. Ah, cioè lei dice che quando fanno le interviste sono rincoglioniti dalle canne, dice? Non lo dico io, basta vedere le foto delle neuroscienze, come un cervello di un diciottenne dopo 3 anni che si fa le canne è ridotto. No, lei è ancora della teoria che uno che si fa le canne gli arrivano i buchi nel cervello? Non è una teoria, basta parlare con questi. Vabbè, ma se uno si fa 100 canne al giorno, dimostra. Ma 100 canne poi, al giorno se uno è così. È contento di avere tutta una serie di funzioni vitali e di neuroni spenti, se è contento di vivere con i neuroni spenti, contento lui, contenti tutti. Cioè, ma secondo lei una canna fa male? Adesso, se uno si fuma una canna, fa male o no? Non me ne dica la verità, uno si fuma una canna, fa male? Ma il problema non è questo. Perché no, ma se uno mi dica la verità, sono persone che sono fumate una canna e sicuramente nella vita non hanno avuto dei casi. Una canna a settimana fa male? Ma poiché la vita è piena, le comunità sono piene, i set sono piene di migliaia di giovani che purtroppo frequento nelle loro distanze, loro e delle loro famiglie, che sono partiti con le canne, che hanno distrutto la vita loro e delle loro famiglie, io credo che qualsiasi educatore e qualsiasi persona di buon senso gli dirà: stai lontano dalle canne, perché rischi di metterti su una china che ti porta alla distruzione. Però scusi, senatore Giovanardi, io dico una cosa: una persona che si fuma, io voglio una risposta diretta, siccome lei pare essere un esperto. Una persona che si fuma una canna, come c'è nelle comunità, ce ne sono di quelle dove una canna a settimana ti vengono i buchi nel cervello? Ci sono ragazzi di 16, 17, 18 anni, venite con me in comunità, che sono già dipendenti dalle sostanze, che stanno lottando per uscire da questa dipendenza. Sì. Quindi Come tutte le cose, poi può darsi che ci sia quello che la fuma, non ha particolari conseguenze, ma se uno a 15 anni incomincia a fumare regolarmente cannabis, arriva a 18 anni con dei problemi patologici nel cervello. Cioè, scusi, uno che fuma una volta a settimana una canna fa male? Sì, uno che è da giovane a 15 anni, 14 anni, Parenzo, se è messo male, lo sa che fa di cannabis, quei principi attivi delle canne, che oggi sono micidiali, è come se uno bevesse un bicchiere di Lambrusco col 90% di alcol, non col 12%, perché i principi attivi sono aumentati a dismisura, ma non solo. Se poi pigli una pasticca di ecstasy o se pigli della droga sintetica, rischi anche con un'assunzione di rimetterci la vita. Beh, comunque, Giovanna, lei in realtà... Io dico solo ai ragazzi, ai giovani, stanno lontani dalla droga. Vabbè, ma questo qua è banale dirlo, è normale. Che... Allora che dobbiamo dire? È più di dirgli che se uno si droga lo curiamo, perché il massimo che facciamo... Ma se uno si fa le canne non è che si droga, prende una cosa che dà un po'... Ma perfetto, allora lasciamo fare le canne... E dice Cruciani, lo facciamo guidare il pulmino dei bambini. Ma quello che c'entra? Il pulmino, ci sono i controlli. Ma sul pulmino facciamo guidare un aereo. Invece, noi cosa abbiamo fatto che siamo così cattivi in Italia? Diciamo che chi fa il grande semplicemente non può fare il pilota d'aereo, ma quello, posso dirti una cosa? Poi a casa sua la canna se la fa, nessuno gli dice niente perché non va in galera, non è penalmente perseguibile, è soltanto curabile nel caso che. Non si debba recuperare nel momento in cui purtroppo le tossicodipendenze sono un fenomeno sociale gravissimo. Sì, vabbè, d'accordo, però questo lo sappiamo. E che dobbiamo fare più di così? No, ma senatore, io dico, uno che si fa una canna a settimana, Parenzo metta, no, si fa una canna a settimana. Si fa una canna a settimana, mica è malato di mente. Mica è malato, mica deve essere curato. Di misura, chi la sera a tavola beve il bicchiere di vino fa una cosa buona per la sua salute. Se si ubriaca la sera, piglia la macchina, ammazza se stesso e altre tre persone. Evidentemente è una cosa che l'ordinamento deve contrastare. Guarda, e abbiamo fatto bene. Da 9.000 morti all'anno abbiamo portato adesso 3.000. Ma quello che c'entra, ma è un altro discorso. Proprio reprimendo comportamenti come l'alcol e la droga, che sono stati decisivi purtroppo. Ma le canne se lo fanno lo stesso i giovani, ha sentito? 8 su 10 si fanno le canne di continuo, c'è una legalizzazione di fatto. Che sono morti travolti da uno che era fatto di canna. Ho capito, ma ci sono quelli E a Sollecito, che hanno rovinato la loro vita perché quella sera erano totalmente fatti di cannabis e non sapevano che cosa facevano e sono andati al processo senza riuscire non mi dirà che la rovina di Sollecito eccetera sono state le canne e l'hashish. Assolutamente sì, ma scusi, se lei ha seguito il processo saprà benissimo. Ho capito, ma non mi pare che sia uscito nelle 24 ore successive all'omicidio, loro stessi erano ammessi che erano talmente fatti che non erano in grado di ricostruire quello che avevano fatto quella sera. Ma non mi pare che sia stata una questione centrale, però. Sono nati tutti i loro problemi giudiziari. Quello che lei ha dichiarato dopo, confusamente, accusando un altro, sento che la droga ha segnato drammaticamente la loro vita. Un attimo solo. Pubblicità, poi torniamo con il mitico Giova, come lo chiama Crozza, 800240024, sempre a favore della repressione dura, sulle canne. Parenzo, stai attento. Stai attento, stai molto attento. Non vi abbandonerò mai. No, ragazzi, ma lo so che in realtà il Giova non è Giovanardi, come lo chiama Crozza, ma è Floris, lo so, scherzavo ovviamente. Dai, siamo con il senatore del Nuovo Centrodestra Carlo Giovanardi. Ti faccio fare un piccolo intervento, Parenzo, che so che sarà molto duro nei confronti di Giovanardi su questa questione della droga. Intanto è un intervento di affetto. Quello sempre, grande. Devo dire la verità, anche quando c'è stato questo errore l'altro giorno alle Iene, no? Sul grammo, no? Sì. Ha fatto un po' la figuraccia Giovanardi. No, scusi, non è stato nessun equivoco, perché i trabocchetti infantili li lascio agli altri. Cosa vuol dire un grammo di fumo, un grammo? Cosa si devono col fumo? Dirmi se il fumo è uguale al grammo di erba. Ma è sempre un grammo, quindi, però, Giovanardi, perché trabocchetto infantile? È una domanda, lei ha detto non sono un tossicologo. Cosa intende con fumo? Cosa intende per fumo? Ho capito, ma anche se avessero detto un'altra cosa, fumo, hanno detto. Ma scusi, adesso ho detto fra un grammo di una sostanza e un grammo di un'altra sostanza, certo che sono uguali, ma i principi attivi no. Ho capito, ma pesano uguale. Ma si misurano i principi attivi, mica il peso. Poi no, cos'è il fumo? Ma cos'è il fumo? No, ma pesano dal punto di vista del peso, cioè pesano. Ma cos'è il fumo? Cos'è il fumo? Vabbè, ma fumo è detto in generale. Lei comunque ha detto non sono un tossicologo, ma il peso. Ma, cos'è? Ma certo mi faccio imbrogliare dal cos'è il fumo? Che uno dice che la spirale di fumo, il fumo ha un peso? No, ma sono trabocchetti infantili che giustamente nei siti demenziali si ferma su queste questioni. Ma perché qui le Iene sono state infantili, demenziali con lei? No, nei siti no, le scene sono state corrette, hanno fatto la cosa, l'hanno messo in... no. Però è un trabocchetto infantile, dopo, dice, Giovanardi ha fatto una figuraccia perché non ha risposto, la differenza fra il fumo e il grammo. Ma cos'è il fumo? Secondo me lei non sa nemmeno che cos'è la cannabis, però, Giovanna. No, io lo so dal punto di vista, non la voglio frequentare, so cos'è il male, so anche la responsabilità di chi, come studi hanno dimostrato per 20 o 30 anni, che più c'è una disapprovazione sociale, disapprovazione sociale, familiare, scolastica nei confronti delle droghe, diminuisce il consumo, più qualcuno invece fa lo spiritoso dicendo, sostenendo che fin dei conti la cannabis, il consumo aumenta, le patologie aumentano, le disgrazie familiari aumentano, addirittura, le dipendenze aumentano. Cos'è? Ora in Uruguay che succederà? Moriranno tutti fra poco? E adesso stiamo a vedere. Cioè che succederà? Una catastrofe secondo lei in Colorado? In Cina era già successo perché... Cioè che succede in Colorado tra lei? Scusi Giovanardi. Scusi. Sapete cos'era successo in Cina quando gli occidentali imposero con la guerra dell'oppio ai cinesi? Che è successo? L'oppio con la guerra commerciale. Che è successo? Che un intero continente venne massacrato con la guerra dell'oppio e ancora oggi in Cina, ancora per quanto oggi? Riguarda le droghe, avviso quelli che vanno a fare un viaggio in Cina e trovano qualcuno con la droga, rischia la pena di morte, perché hanno la memoria storica di un intero continente che fu devastato. Ma in Colorado che può succedere? In Colorado che può succedere? Sono tre, si rincoglioniranno tutti, anche in Uruguay diventeranno... Ma sta già succedendo, credo che in Colorado abbiano già dei grovissimi problemi. Ma dai, come si rincoglioniscono tutti in Colorado? Hanno messo in moto. Ma no, ma non è possibile che uno può pensare che si rincoglioniscono tutti. Uno dei problemi è quello che Paolo Borsellino ha ripetuto, e io giustamente propagando, prima di essere ammazzato dalla mafia, spiegando che la liberalizzazione o legalizzazione delle droghe, compresa la cannabis, è il più grande regalo che si possa fare alla criminalità organizzata per incrementare i suoi mondi traffici. Ma che cos'è la cannabis? Scusi. Incrementare, che avete capito? Ma la cannabis che cos'è? La cannabis che è? Lei non fatto Giovanardi, mafia. Lei non sa che cos'è la cannabis? Ma non l'ho mai provato sicuramente. Ma non sa che cos'è? Che cos'è? So gli effetti, che i principi attivi della cannabis ci hanno... Ma no, ma salute, che cos'è? Materialmente cos'è? Materialmente cos'è la cannabis? Questo mi basta. Cos'è la cannabis materialmente? Guarda, l'altro giorno mi hanno dato anche un bello spinello da fumare, l'ho appoggiato lì e le posso assicurare una cosa, non avendo mai fumato, perché non ho mai cominciato diversamente dai miei genitori, sono stato benissimo. Ho guadagnato dei soldi, anzi ho risparmiato dei soldi e ci ho risparmiato anche in salute. Ma quindi dico anche ai ragazzi che fanno una fatica. Ma lo sa che cos'è la cannabis? La cannabis. No, ma siete dei professori universitari, spiegatemela voi. No, ma che cos'è? Ma è una... spiegatemela voi. No, ma che cos'è materialmente? Materialmente cos'è? Spiegate voi cosa sono i principi attivi della cannabis. No, ma materialmente cos'è? Siete professori. No, ma che cos'è la cannabis? Ma non è una foglia, cos'è? Immagine. Spiegatemelo voi. Ma ho capito, lei è uno che ha fatto una legge che si chiama Fini Giovanardi sulla droga e non mi sa dire che cos'è la cannabis. Certo che ho fatto una legge Fini Giovanardi sulla droga. Ma non mi sa dire che cos'è la cannabis. E ho interpellato i tossicologi per farlo. Quindi? Spiegatemelo voi che siete professori insegnanti. No, ma che cos'è? Io so tutto sugli effetti. Ma non sa che cos'è la cannabis. Non mi interessa. Ma non sa che cos'è? Che cos'è? Un albero? Cos'è? Un albero? Beh, ho capito. Per l'amor di Dio, andiamo avanti, dai. Ma come andiamo avanti? Allora, la cannabis è anche tra canapa e cannabis non c'è differenza. Ecco, è un genere di pianta, è un genere di pianta. Che oggi vengono messi in mercato a decine, che continuamente cambiate. Ma quello è un altro discorso. Le molecole sono sempre le stesse, che girano, vengono modificate. C'è un suggerimento che è arrivato. Naturali che siano. Comunque è un genere di pianta. Giovanardi, a me interessa gli effetti che hanno. È un genere di pianta, le voglio informare che è un genere. Nessuno che è un genere di pianta. La cannabis è un genere di pianta. In Emilia-Romagna quando si produceva la canapa l'aspiravano. Storicamente, ma è dai, un ma genere di pianta, parlando? La cannabis è un genere di pianta. No, beh, bravo, non lo so mica io che la cannabis è un genere di pianta, me lo spiegate voi. E no, io lo sto dicendo invece, io. E diffondete i danni che fa la cannabis. Ma quello è un altro discorso. Noi stiamo parlando di questo, io mica faccio il coltivatore. Beh, ho capito, fa il coltivatore. Ma ha scritto una legge. La piantina o la coltivagione. Ma quello è ottimo, perché non viene permesso? Privata. Perché non viene permessa la coltivazione privata? Sarebbe ottima. Ma infatti se fosse la piantina è un conto, ma poiché c'è gente come Roma che fa piantagioni che vengono fatte per spacciarla poi e distruggere la salute di chi ne fa consumo, giustamente l'ordinamento è contrario. E io potrò rimanere in minoranza, ma non credo, perché le mie posizioni, ci dà il caso, che tolto il Colorado e l'Uruguay, sono sottoscritte da tutti i paesi del mondo. Ma il Colorado e l'Uruguay che sono? A livello europeo, a livello mondiale, a livello di ONU, la pensano tutti come Giovanardi. Ma perché non fa un bel viaggio in Colorado e in Uruguay per vedere com'è la situazione? Ma fatelo voi il viaggio, sto benissimo senza drogarmi. Ma non è che uno... In salute, e consiglio a tutti di stare benissimo senza fare l'uso delle droghe e senza dover finire. Venite con me. Davanti ai CERT. Ma che c'entra i CERT con la cannabis? Venite a vedere su come si distrugge salute e la vita le persone. Parenzo, che cambiamo sono argomento. Volevo dire solo questo. Io ero intenzionato, ero intenzionato a smettere, cioè non volevo più farmi le canne. Adesso sentendo questa intervista, però sai cosa faccio ora? Forse senti anche ti il fai rumore. Un bel cannone, fai sentire? Adesso mi voglio fare una bella cannetta di cannabis. Che c'è dentro? Che sostanze ci sono? Io non me le faccio, Giovanni, io non me le sono mai fatte le canne, come lei sono, eh? Mai fatte in vita mia, mai. Me la voglio rollare. Stai rollando una canna? Stai rollando una canna, vergognati, vergognati. Mettendoci anche, metto poco tabacco perché così si sente di più e poi faccio quello che si chiama il castelletto. Che cos'è il castelletto? No, non so che cos'è il castelletto. Lei sa, Giovanardi, cos'è il castelletto? No, no, io ricordo invece che una volta si cantava in chiesa, adesso un po' meno, diceva alla fine: per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. E dunque questo potrei applicare a chi fa queste sceneggiate sulla cannabis, mi fumo la cannabis, dico: per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. E invece voglio dirti questo: stavo tornando da Siena a Roma, dove sono arrivato, e sul pullman mi ha fermato il sostenitore e fa: ma lei è Parenzo? Dico: sì, dov'è quel coglione? Dico: cioè, ma no, lui è rimasto a Milano. Ah, ciao, siete fortissimi, chi c'è stasera? Dico: guarda, stasera ci sarà Giovanardi. Ah, allora devi cantargli questa canzoncina. Che posso? Cos'è? Ah, vai, vai, vai, vai. Giovanardi, tu sei il leader di noi gay. Giova, tu sei il leader di noi gay. Ma davvero ti ha detto così? Davvero ti ha messo a cantare sul pullman. Giova, tu sei. Adesso vedo se riesco a mandartelo. Scusi, però ha fatto bene. Io su questo difenderò Giovanardi, lo dico subito. Letta ha fatto benissimo ad andare a Sochi. Giovanardi, mi appoggi su questo? Allora, non solo l'appoggio, una settimana fa Giovanardi e compagna, mio collega senatore, siamo stati gli unici a reagire contro il fatto che la Corte Suprema indiana ha confermato l'ergastolo per gli omosessuali. Nessuna organizzazione gay italiana ha aperto bocca, silenzio totale. Vabbè, quindi dovrei questo sapere, e io ho detto: facciamo una campagna assieme contro questa barbarie. Succede in Africa, succede in Asia, succede nei paesi arabi, succede in India. Vabbè, un quello miliardo di persone. E vanno a rompere le scatole a Sochi? No, a Putin, dice, a vanno Putin a rompere le scatole a Putin. Perché? Quando in India gli danno l'ergastolo? Quando nei paesi africani gli danno anni di galera? No, ma fanno lo stesso, ma anche per quello protestano. Rischiano la pena di morte e vanno a fare confusione alle Olimpiadi con Putin? Ma perché invece non facciamo una campagna contro l'India e contro i paesi che mettono in galera gli omosessuali? Vabbè, ma quello si fanno le campagne. In Nigeria hanno fatto una legge. Ho capito, ma si protesta anche su quello. Facciamo un patto. Allora, lottiamo tutti perché gli omosessuali non vadano in galera e lottiamo tutti in Italia perché Giovanardi, che la pensano come lui, sulle adozioni, ma le adozioni sono un'altra cosa. Le adozioni sono un'altra cosa. Non andiamo in galera nessuno. In Russia vengono torturati ogni tanto i gay, lo sa o no? Ma io non lo so, quando e dove che vengono torturati? Beh, ci sono dei video delle organizzazioni umanitarie, eccetera, vengono picchiati per strada. Sinceramente, scusi, no. Allora, mi dica. Se parliamo seriamente, parliamo seriamente. Allora, che ci possono essere posizioni omofobe in Russia e persone delinquenti che fanno azioni però secondo lei non rischiano in Russia, non rischiano in Russia i gay? No, rischiano molto di più in India, molto di più in Africa, molto di più nei paesi arabi. Ma lì c'è la pena di morte in alcuni paesi, d'accordo? Appunto. Cioè, allora, i gay in Russia possono stare tranquilli, i gay in Russia possono vivere tranquilli. Vivono tranquilli o no, Giovanardi? No, a un certo punto non se ne può più. Cioè, siamo arrivati oggi nella scuola di Venezia, quell'assistente vuole dare ai bambini dai due, dagli asini nido fino ai 5 anni l'indottrinamento sui due pinguini che fanno l'uovo e sulle fiabe gay ai bambini dai 2 ai 5 anni. Io ho detto: giù le mani dai bambini. Vabbè, ma quelle sono delle fiabe, Giovanardi, su. Giù le mani dai bambini, le mani dai bambini, dai 2-6 anni, perché un conto è dire: ognuno è libero di fare quello che vuole, sei omosessuale, sei lesbica, sei gay, perfetto. E un conto è di pensare, di proiettare su bambini dai 2-6 anni degli esperimenti come fossero delle carie. Questa va cacciata, questa insegnante, eccetera, va mandata via, secondo me. Non è un insegnante, è l'assistente dell'assessore per le politiche di è stampato, è sta per distribuire. Sì, sì, lo scuole. Lo so. Non nelle scuole, ai bambini dei 2 e 6 anni. In oltre 30 questo scuole si chiama col tentativo di stoganare la pedofilia a livello internazionale. Ma che c'entra la pedofilia? Lei sta dicendo che questa iniziativa qua di distribuire questi libri in cui ci sono anche delle famiglie eccetera è uguale alla pedofilia? Ci sono situazioni nelle quali l'infanzia e i bambini sono nel mirino ho capito, lei sta campagne che sostengono, come negli Stati Uniti, gli psicologi, che va sganato il reato di pedofilia e diventa semplicemente orientamento sessuale. Beh, lei sta dicendo e allora torna a dire giù le mani dai bambini. Un attimo solo, pubblicità. La zanzara è come una droga. Eccoci, la zanzara, cari amici, popolo della radio. Siamo qui collegati con voi, taxi, automobilisti vari, camionisti, gente che sta a casa, gente che sta con la famiglia, gente che sta con le amanti, Parenzi vari. Sì, siamo qui, dell'Utri, ancora resistiamo. Voglio fare un'ultima domanda a Giovanardi, caro Parenzi, in questa meravigliosa battaglia serale con Giovanardi. Siamo su posizioni molto diverse, però ci rispettiamo e io odio chi lo massacra e lo insulta puntualmente per le cose che dice. Lo rispetto, sono in disaccordo, ma lo rispetto profondamente. Giovanardi, quante persone devo odiare? Quante persone dovrebbe odiare o odia? Tante. No, appunto, odio chi mi insulta, dico sono tantissimo. Scusi, Giovanardi, però perché nell'NCD, Parenzo, vogliamo fare questa domanda? L'altro giorno Scopelliti, che fa parte del suo partito ormai, l'NCD, ha detto che noi nell'NCD vogliamo solamente uomini che vanno con le donne. Ecco. E poi addirittura vuole candidare Cecchi Paone. Ma lei lo candiderebbe Cecchi Paone nell'NCD? No, ha fatto come Barilla. Cioè? Prima ha detto una cosa, poi ha fatto un'autocritica che è eccessiva, perché lo avrebbe giustamente dovuto dire che se Cecchi Paone, che è un uomo di centrodestra, vuole candidarsi, non abbiamo nulla in contrario. Beh, voi però certo che dire deve fare il capolista a Reggio Calabria, è andato al come dicono a Modena, le è peggio il tacon del buso, perché? La prima frase era sbagliata. Quale? Quella di dire noi, è quella di, ci immagina la storia della Democrazia Cristiana, e l'ho detto un milione di volte, ministri, presidente del consiglio, uomini importanti, ci mancherebbe altro se persone omosessuali non fossero beh, state però perché nella NCD non fate coming out? Perché nell'NCD nessuno fa coming out? Ci saranno gli omosessuali nell'NCD o no? Ma perché, scusi, perché questi personaggi che hanno fatto il presidente del consiglio o hanno fatto i ministri, ma hanno i tempi fatto sono cambiati, dovevano, ma perché dovevano, ma scusi, saranno affari loro. Scusi, ci sono gay nell'NCD o no? Ma scusi, ma perché, ma non lo so, ma saranno affari loro. Ma come saranno affari loro? Ma sarebbe meraviglioso. Lucio Dalla ha fatto il funerale religioso, era religioso, era credente. Vabbè, ma si sapeva. Faceva gli affari suoi. Però sapeva. Perché Lucio Annunziata, che lo devo obbligare a dire quello che fa nella sua vita privata. Ma che c'entra Lucio Annunziata, scusi? Perché l'ho accusato di non aver fatto auto. Ha detto, ma Lucio Dalla si è fatto il funerale in chiesa, era cattolica, ma non ha mai detto pubblicamente. Vabbè, ho capito, ma è uguale, dire. Su. Uguale. E che doveva dire, scusi? Ma scusa, comunque, so che fosse facevo per lei Cecchi Paone mai candidato? No, ho detto esattamente il rovescio, ho detto secondo me Cecchi Paone ha tutto il diritto di candidarsi. Detto ho trovato Cecchi eccessivo detto Cecchi che abbia Paone detto deve fare il capolista nella città di Reggio Calabria, con cui non c'entra ma quello vuole lui andare in Europa addirittura, il capolista all'europeo, altro che Reggio Calabria. Ma c'è già provato e non è stato eletto. Con forza è vero. E allora giustamente il mio amico Nucera, che è un consigliere regionale, ha detto ma veramente si invita, sì, ma forse a Reggio Calabria, per fare il capolista a Reggio Calabria ci potrebbe essere anche qualcuno di Reggio Calabria. Comunque, vabbè, lasci perdere Reggio Calabria, è che in realtà la frase di Scopelliti è una frase significativa. Ma voi con i vostri valori o no? Esatto, una persona che questo si dichiara omosessuale, è apertamente omosessuale, è incompatibile con l'UDC. Ma vuol far battaglie, caro Luciani, se io leggo oggi, l'ho letto sul Corriere, no? Che c'è la preoccupazione appunto nelle scuole materne, negli asili nido, perché a 3 o 4 anni o anche prima i maschietti incominciano ad avere tendenze, orientamenti da maschi e le femminucce invece incominciano ad avere orientamenti da femminucce e quindi bisogna intervenire precocemente in quel momento per spiegargli invece che maschi e femmine sono esattamente uguali, che non c'è nessuna differenza. Ma cioè, no, ma non è questo, ma non è questo la... Non è questo, no, si sta con la teoria del genere, si sta sostenendo questo. E i bambini non devono essere delle cavie per esperimenti. Ma dove arriviamo? Dove possiamo arrivare secondo lei se fossero diffusi questi libri? È un mondo in cui diventiamo tutti omosessuali? Ma scusi, ma lei è un bambino di 3 anni, io sono dei nipoti di quell'età lì. A un bambino di 3 anni gli fa vedere i 2 maschi che fanno l'uovo? Ma non è 2 pinguini maschi che covano un uovo? Scusi, ma i 2 maschi come fanno a fare l'uovo? Non 2 pinguini maschi che covano un uomo? E vabbè, ma che sarà mai? Che sarà mai? Ma che sarà mai? Ma insieme vedranno. Cioè, fino ai 2, cominciamo proprio da 3 o 4 anni i bambini a creargli delle situazioni diciamolo di disagio, di turbe, di diciamo confusione. di turbe. Quando uno è maggiorenne, giustamente, che fa quello che gli pare. Ma tu le mani dei bambini. Ma scusi un attimo, mi meraviglio. Quali turbe possono avere questi bambini? Che diventano? Non lo so, che possono diventare questi bambini? Io non voglio che i bambini facciano da cavie per sapere dopo che cosa possono avere nel momento in cui invece di lasciare spontaneamente che la sessualità maschile o femminile, o se si vuole nello sviluppo anche un tipo di sessualità diverso, invece di essere orientata naturalmente viene forzata rispetto a una teoria folle secondo la quale si può scrivere anche nelle leggi che uno non è un maschio e una femmina. Comunque, ma è quello che in quel momento si sente di essere. Comunque, al mattino, al pomeriggio, il giorno dopo. Comunque, questo è il grande grosso libro delle famiglie su diverse forme familiari. Comunque, Giovanardi, perché lei diceva prima in Emilia Romagna si aspirava la canapa? Quando è che si aspirava la canapa in Emilia Romagna? Beh, era un'usanza contadina quando era diffusa la coltivazione della canapa. Beh, ma ottimo allora. È vero, ci sono anche riti orgiastici precedenti al tempo dei romani, perché erano effetti, diciamo, allucinogeni. Beh, ma è straordinario. Collegata... Potrebbe tornare di moda o no? Bello. No, non so se fosse, no, brutto, molto brutto, ragazzi, molto brutto. Grazie, a presto. Molto brutto. Ok. Ciao. Grazie. Però che palpe per questi froci. È prima che Copaone e poi Barilla. Che state massacrando le cronache. Non se ne può... Voi siete Radio Gay, non siete Radio 24. Questo è un buon titolo. Questo è Radio Gay. Vi do un po' di materiale per incazzarvi, amici miei. Adesso vi faccio intervenire in massa, qui, popolo della radio, siamo qui alle 20:22. Iniziamo dall'intervento ieri sera qui alla Zanzara del professore, avvocato, deputato Parenzo. Ci sei? Sì, certo. Tieniti forte, professore, avvocato, deputato Longo, Forza Italia, che con 96% di assenze in Parlamento propone il telelavoro da casa. Cioè dice: io in Parlamento non ci voglio andare per motivi vari, perché così faccio contenti i miei nemici, eccetera eccetera, però sarebbe il caso, basta con queste commissioni, con la presenza fisica in Parlamento, ma è roba antica. E si siglano grandi contratti internazionali con la videoconferenza, perché non farlo anche per la Camera? No, la Camera vanno rifatti i regolamenti. Per esempio, perché si deve andare nelle commissioni fisicamente e quando ci sono strutture organizzate e assolutamente sicure di videoconferenza? No, ci sono le videoconferenze, per cui si fanno nel mondo i contratti sul piano privato, anche sul piano internazionale, in videoconferenza. Alla Camera e al Senato non si può. Non si può, perché c'è questa visione della presenza fisica. E poi all'altro, una botta nel braccio, e poi all'altro, prendila. Beh, questa di buon anno invece è ottima, eh. La Boldrini non presiede, fa la telecronaca come Sandro Ciotti. La presidente Boldrini la ritengo inadeguata, perché molto spesso fa degli errori, forse anche su suggerimenti sbagliati. Anche nella gestione dell'assemblea, più che fare il presidente della Camera, fa un po' la radiocronaca, cioè dice: ecco, adesso il deputato non riesce a schiacciare il tasto, ecco che arriva l'altro deputato a sostituire. Cioè fa più una radiocronaca che il presidente della Camera. Ma veramente, mi ricordava Sandro Ciotti. Addirittura, la Ciotti era di un'altra pasta, dai, Boldrini, mix Boldrini. Raffaello Mascetti, Stefano Rodotà, Valeria Marini. Nulla. Carfagna, non hai requisiti, nulla. Tolga questa cosa, ma la smetta, la smetta. Io gliele regalo. Tolga queste manette, intervengano i questori. Ah, c'era anche la colonna sonora? Accidenti, gli effetti speciali su questa premonizione, grazie. Mi ha beccato. Merita una riflessione questo. Ma peggio è. Io trovo questa voce insopportabile, so che non dovrei dirlo. Però molta dell'antipatia che fa la Boldrini in certi ambienti deriva anche dalla voce. E ragazzi, è così, c'è poco da fare. Anch'io sto sul cazzo per la voce ogni tanto. Beh, anch'io, ma che c'entra? Ho capito, ma c'è qualcuno che non mi sopporta per la voce, c'è chi mi adora, come è normale che sia. La Boldrini ha una voce insopportabile, non c'è. Ma lo si può dire. Ma sì, certo, giudizio politico, ma io lo posso dire, ha una voce insopportabile. Quando parla non si può sentire, è insopportabile. Ma non è vero, è molto risulta immediatamente anti. Ma no, ma buon anno, non ha una voce. voce. Buonanno ha una voce goliardica, buffonesca, se vogliamo, nel senso buono del termine o nel senso negativo, non lo so. Lei ha una voce proprio insopportabile. Brunetta, se vuoi. Perché invece questa ha una voce piacevole, brunetta. È uguale, come brunetta. No, che uguale. È uguale. Ma sei sempre il solito fazioso, mamma mia. Sto facendo un'analisi della voce. Che me ne frega a me della politica. No, ecco, tipo Vendola non ha una bella voce. Sentiamo Mandarà che cosa dice, va. L'amico Mandarà. Salvo stupra la zanzara. Beh, questo mi sembra un po' esagerato anche utilizzare la parola stupra, no? Una volta. A proposito, ho cambiato il nome, eh? Adesso il nome del video è Salvo 5.0 stupra la zanzara. Scusate, ma visto quello che è successo in queste settimane, visto che io sono un potenziale stupratore e che comunque non è andata male la performance, allora ho cambiato il titolo. Prima avevo messo Salvo 5.0 si fa una sveltina con la zanzara. Invece adesso il titolo è Salvo 5.0 stupra la zanzara. Se n'è andato e non ritorna. Beh, è tornato Pannella, eh? Appena sento questa musica capisco subito che si va lì a parare, signor Pannella. Senza l'anima. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Di città, a scuola il banco è vuoto. Senti, senti, intervistato la Sky di G24, senti, mettetemi il meglio, mettetemi il meglio, vi prego, il meglio. Continua la putrefazione di un regime tecnicamente partitocratico e non democratico. I veri dibattiti non ci sono. Insomma, sti giorni il grande dibattito è se Renzo o manna via Enrico o no, e poi per che cosa, per la legge elettorale, che poi vanno la stessa cosa, perché è l'unica che vuole il popolo italiano. La putrefazione, com'era? Com'è, Parezzo? La putrefazione. La putrefazione. Ma su questo ha ragione nel merito, però. Sì. Tu lo prendi in giro, ma non dice cose. No, ma la ma dimmi la putrefazione del sistema partitocratico. La putrefazione del sistema partitocratico con Benedetto Croce, con la lotta al potere politico. Senti, senti che elogia adesso, si è fissato con Papa Francesco, è diventato un idolo Papa Francesco, è una roba assurda, dai. E adesso, viva Dio, proprio ci vo', viva Dio, se abbiamo sto Papa Francesco, bene, che è davvero, io voglio essere cittadino di quella parte. Di quella parte lì, di quella che ha abolito l'ergastolo e ha instaurato il reato di tortura, mentre di qua siamo Cesare delle catacombe. Dimmi. Vuole essere cittadino vaticano Papa Francesco. Beh, è stupendo, però, questo. Lui vuole diventare cittadino vaticano perché dai, dice che si commettono meno barbarie che nello stato dai, nel quale vive. Su. Ha ragione. Senti questa cosa, senti l'ultima, senti l'ultima. Come vedi, e questo mi fa piacere dirlo, come Renzi, come gli altri, come Letta, come Grillo, se vuole vieni qui e parli esattamente. Guarda, come tutti. Se fosse come, vi chiuderebbero. No, però, però vi nel do limite atto della possibilità, che nel limite della possibilità, da voi c'è. Noi abbiamo sempre, c'è. Noi abbiamo sempre un grande piacere quando vieni. Marco e Pannella, io, devo chiudere. E io devo dire, grazie, che sto sempre a casa, eccetera, a Sky TG. Bravo, bene, ecco. Oh, meno male. Perché sono un giornalista serio e va bene come fate il giornalismo. E noi spesso, quando possiamo, ci ascoltiamo in radio. Pure voi. Renzi, Marco, grazie, però, grazie a Marco Pannella, grazie di essere stati con noi questa mattina. Andiamo, andiamo in break radicale, e ci ritroviamo alle 9.30 in punto. Ci vediamo tra poco, grazie. Ma ha dovuto fare la fine della cosa, votate radicale. Ragazzi, dai, su, salvatelo, borsa. Distanze enormi sembrano dividerci. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ronda. Ma poi invece s'appoggia, s'appoggia proprio addosso a me. Studi scientifici dimostrano che se mangi sano, non bevi, non fumi, non dici parolacce e fai sport, muori lo stesso e fai pure una vita di merda. Beh, però io faccio sport, non fumo, dico parolacce ogni tanto, mangio sano e non bevo. Mi devo preoccupare, Parenzo? Beh sì, mi sembra un grande insegnamento questo qui, effettivamente. Bruno da Verona. Bruno, tu fai veramente una vita di merda, per quello che ci vede. Bruno. Voglio bene. Dimmi. Allora, facciamo così. Se riesci a non dire quindi, allora. Quando? Dai, forza. Ok. Sì, okay. Vabbè, ma non mi devi insegnare qualcosa, Bruno. Non sei il mio professore. Va bene, dai, proviamo. Mi vuoi bene, vabbè, d'accordo. Io sono contento che oggi. Era mio figlio. Mio figlio mi dice: papà, e quindi? E io di scatto, non farmi i Cruciani, gli dico. E lui mi dice: ma chi è Cruciani? Ecco sta. Allora? Togli il viva voce, togli il viva voce, diavolo, dai. Allora, una cosa velocissima. Io è un'ora e venti che aspetto. Vabbè, ma perché sei ancora in viva voce? È perché non ti cambia il voglio. Ma va bene, togli il viva voce, altrimenti si sente male, Bruno, dai. Allora, vediamo se si riesce a togliere. Dai, forza, mamma mia. Sì, vabbè, arrivederci. Andrea da Genova, dai, adesso lo recuperiamo questo. Andrea da Genova. Ciao Parenzo. Dimmi, caro, dimmi. Senti, volevo intervenire su quello che ha detto Giovanardi sulle canne, che se uno inizia con la canna poi finisce con le droghe pesanti. Ecco, io ho iniziato a 13 anni, ne ho 43 e non ho mai toccato nient'altro che le canne. Cioè, da 30 anni che ti fai i cannoni? Esatto. 30, esatto. Ma quanti? Bravo. Quanti te ne fai? Poi volevo dire con lo stesso metro. Sì. Allora uno che beve dovrebbe diventare alcolizzato. Ma io uno non ho che capito. Tromba dovrebbe diventare un violentatore di donne. Bravo, giusto questo, bravo, un bel paragone. No, mi sembra una Scusa, tesi no, non di per uno farmi, che ci no, governa. Non per farmi gli affari tuoi. A me sembra lucido nell'eloquio. Scusi, Andrea, lei quante canne si fa al giorno? Boh, dipende, quando sono con gli amici anche 4-5. Ma al giorno, in media, quante se ne fa? Una? Ah, io beh, una al giorno sicuro. Un attimo solo. Che sembrava Pinkett questo. Aspetta. Sembrava Andrea Pinkett. Magari è lui. Infatti. Andrea, lei è Pinkett? No, sono Andrea da Genova, guarda. Non c'entra niente Pinkett, eh? No, mi dispiace. Scrittore Andrea G. Puntato Pinkett. Sai perché cosa sta G? No, perché cosa? Non me lo dice sempre. Dimmi, perché sta? Io mi chiamo Andrea e G. Pinkett, laddove G sta per grande, anzi grandissimo. Ma come lo dice? Ma perché? Pronto? Buonasera. Buonasera. Cercavo il dottor Amadeo. Chi è che parla? Sono Cruciani, dal Sole 24 Ore. Un attimo. Grazie. Aspetti che vado. Molto gentile, grazie. Dal Sole 24 Ore. Pronto? Oh, carissimo, come sta? Bene, molto bene. Senta, ma lei ha detto oggi una cosa spettacolare. Mi è piaciuto tantissimo con questa roba qua. Me la può spiegare? Voglio fare lavorare all'ospedale tuo, fratello. Questa cosa dell'infermiere. Io vuole lavorare all'ospedale tuo, cambiarti catetere, problema... fratello. Allora, mi dica. La storia è così. Sì, com'è la storia? Io ho un'azienda molto territoriale. Sì. E ho la fortuna di avere quasi tutti gli infermieri che vengono dalla scuola che è stata fatta nei miei presidi. Tutti italiani? No, non solo, bergamaschi quasi tutti. Tutti bergamaschi? E parlano anche bergamasco. Ottimo, dunque? Hai capito? Cioè parlano anche bergamasco, per cui i pazienti si sentono più accuditi, l'accoglienza è migliore e loro sono soprattutto fidelizzati con il loro ospedale. Cioè, lei sta dicendo che i pazienti si sentono meglio, si sentono più a loro agio, se addirittura sentono l'accento bergamasco, giusto? Esattamente sì. E questo non vuol mica dire essere xenofobi o altro. Beh, perché però... guardi che noi abbiamo circa il 30% di parti che sono extracomunitari e vengono a ringraziarmi perché sono trattati alla grande. Però scusi un attimo, scusi, professore, però se uno dice che il successo dell'ospedale dipende anche dagli infermieri, ovviamente, no, e qui non ci sono... Allora, ho 360 medici, 1041 infermieri professionali, 500 infermieri... No, d'accordo, lei ha detto il nostro successo dipende anche dai... voglio ringraziare anche 1000 infermieri, molti dei quali si formano alla nostra scuola. Sì. Però poi ha aggiunto, qui non ci sono marocchine o rumene, insomma, amico mio... Ma potevo anche dire anche statunitensi. E vabbè, tanto però ha detto marocchine e rumene, non è che... Anche perché, cioè, nella vita quotidiana la verità è quella... Cioè la verità è che poi alla fine quelle che vogliono fare gli infermieri sono marocchini o romeni. Ma sì, ma perché vengono anche a dire che non va volentieri in clinica perché ci sono questi rumeni che non capiscono niente di italiano. Cioè chi? Non ho capito. Questi rumeni quando... che vanno a ricoverarsi nelle cliniche private, si da me perché il personale... Parla, non parla bene. È un personale che non è legato alle nostre mentalità e tradizioni. Però quello, quando lei ha detto questa frase, uno capisce che queste marocchine o rumene sono peggio degli italiani come infermieri, o no? Lei lo pensa questo qua? È meglio un italiano? E io, ma soprattutto legato al mio territorio, no, ma anche in Romania, come... sì. In Romania, secondo me, l'infermiere italiano e soprattutto l'infermiere bergarat meno gradito dell'infermiere rumeno. Vabbè, ma dipende, se uno è bravo può fare l'infermiere ovunque o no? Ho capito, ma non siamo... Allora, la gente ha delle tradizioni e delle abitudini. Vabbè, ma che c'entra? Se uno viene curato bene, se uno è romeno o marocchino, che gli frega? L'importante è che parli un minimo no, in italiano. Sono d'accordo anch'io, però le abitudini... Cioè, se uno parla e si spiega male... È peggio, dice lei. Dice uno chiama la notte, uno chiama la notte urgentemente, non sa parlare italiano, è un problema, può fare crepa. No, non è quello lì il problema, è l'insieme del discorso, cioè uno di 85 anni che ha sempre visto la gente del suo paese, se trova gente di altro genere si trova a disagio, si incazza. Poi dopo niente da dire sul fatto che ci siano quelli bravi e asini dappertutto nel mondo. Però Amadeo, qui è sembrata veramente una frase un po' sgradevole nei confronti degli infermieri marocchini o romeni, perché non è che assediate poi si ricoverano solamente gente che parla bergamasco, ci sarà pure gente normale che parla. Il 30% che partorisce è extracomunitario. Extracomunitario. Parenzo, che hai da dire al dottore, dire professore? Questo. Primo, caro amico mio, se io dovessi, Dio non voglia perché so bene, ma ricoverarmi al suo ospedale. A me girerebbero fortemente i coglioni avere un infermiere che a un certo punto mi dice pota Cruciani ti cambio il catetere perché, ma perché scusa perché no, mi dà fastidio pota a me. Vabbè, ma che c'entra? No, non dicono pota, sono a me interessa semplicemente che sappia cambiarlo bene, sono educatissimi. Allora Amadeo vuole dire semplicemente una cosa, vuole dire che le persone lavoro. Che si ricoverano all'ospedale di Seriate, non solo di Seriate perché ho 7 ospedali, uno a Clusone. Però scusi, seguendo questo ragionamento, Amadeo, uno assume solamente gente del posto, è un po' strano? No, finché ci sono va così. Appunto, finché e dopodiché chi avrà più titoli e sarà più meritevole viene assunto. Cioè prima vengono gli italiani e poi gli altri, dice lei? No, quelli che hanno diritto. Vabbè, appunto. Prima... Se per esempio uno dei requisiti è la cittadinanza o quant'altro. Ma quello non può esserci. Fine, dopo invece se uno arriva e non è bergamasco o italiano... ma hai i titoli e le qualità, nessun problema. Però secondo lei a parità di titoli è meglio un italiano? Per i nostri vecchi sì, per me è uguale. Per lei è uguale. Vabbè, grazie. Molto gentile, a presto, un abbraccio. Grazie belle cose, Amedeo Amadeo. Non me moleste moschito. Allora, Andrea ci ha detto una cosa molto semplice. Ci ha detto che si fuma praticamente una canna al giorno, giusto? Sì, esatto. Una canna al giorno. Sera mi leggo un bel libro, mi faccio una canna e sto benissimo. In 30 anni. Rilassa, ma lei si è fatto un controllo al cervello? Cioè, c'hai i buchi al cervello, come dice Giova, o no? Ma guardi, io non so, prima il parente mi sembrava che dicesse che il mio discorso non faceva una piega. No, ma lei si è controllato, li ha controllati sti buchi al cervello? Perché Giovanardi dice che lei da 30 anni se fa una canna al giorno, altro che buchi al cervello, dovrebbe avere una groviera al cervello, secondo quello che dice il Giova, no? Il grovierone. La gente dovrebbe farsi le canne proprio per tappare, per farseli un po' di buchi, per sfogare queste tronzate che dicono, ecco. Vabbè, però lei in controllino, siccome lo dice il Giova che ha fatto la legge, poi non sapeva. Ma che lavoro fa lui? Che lavoro fa lei, Andrea, l'autista? Io sono uno chef, un cuoco. Il pericolo chef. Adesso c'è il pericolo chef. Ecco. Pericolo nel ristorante. Ma perché non fa un bel tortino di marijuana, ad esempio? Ma guardi, lo farei anche se mi lasciassero coltivare al posto dell'origano la marijuana, lo farei volentieri. Una bella torta, la torta l'hashish. Ma l'hai mangiata tu? Buona. Andrea, siamo... ecco, secondo te i clienti del ristorante si sentirebbero in pericolo a sapere che chef se fa le canne una al giorno? Non credo proprio, no? Anzi, non credo. Non penso proprio. Anzi, forse la sua creatività di cuoco, no? viene esaltata, o sbaglio? Ma no, diciamo che ti apre la mente, ecco, ogni tanto ci vuole qualcosa per aprirsi la mente, c'è chi lo fa col vino, c'è chi lo fa con uno spinello. Sicuramente non è mai esagerare in queste cose. Ecco. Sicuramente se ti fumi una canna non ti viene in mente di votare Giovanardi, questo è sicuro, perché ti apre un po' la mente. Sicuramente, quello sicuramente. Vedi, adesso io sono a teatro, vado a teatro a vedere sì. l'Albanese, mi sono fatto una canna. Si è fatto una canna da poco, eh? Risate alla facciata di Giovanardi. Va bene, Giorgio da Roma, buonasera Giorgio. Mi pare una persona molto per bene a me. Ma io non ho detto che è per male. Senta, io vorrei fare una considerazione. Sì. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, per carità. E meno male. Però c'è una cosa da dire, che quando ho una canna, o più di una canna, va addosso a una persona che magari caratterialmente non è forte, psicologicamente, insomma, a quel punto diventa un dipendente. Io ce l'ho questa cosa purtroppo ed è diventa un problema grosso. Vabbè, ma tutte le dipendenze sono un problema, le dipendenze da sesso, capito, le dipendenze dall'alcol, da sono tutte un problema, le dipendenze, gli eccessi sono tutto un problema, su mai. No, quello che voglio dire, perché magari cioè se uno scopa troppo è un problema, può creare un problema se uno scopa troppo o no. Sì. Certo, ma se uno è un'autobiografia, ma non c'è nessuna autobiografia. Bene, ma però quello che io, se io prima stavo in macchina, ho sentito che tornavo poi per, ecco, però si parla solo perché uno si fa, però non ho sentito che avete parlato del fatto di quello che può succedere a una persona psicologicamente non forte. E questo non avete detto per niente, è quello che voglio dire. Io comunque siccome mi ci trovo in questa situazione, diventa un problema per la famiglia. In che senso? Che suo figlio si droga, non ho capito. No, beh, perché poi con le canne quando uno diventa dipendente, perché come diceva Giovanni prima, quando si fa da piccoli, poi diventa un ma non è detto, ma guardi, il problema tanto è che non si risolve, perché ha sentito quello che dicono quei ragazzi davanti alle scuole, si fanno la legalizzazione già esiste, solo che i soldi li fanno gli altri, non li fa lo Stato. La legalizzazione è di fatto, perché uno se vuole trovare una canna, la trova anche qui. Se voglio chiamo il tecnico, come si chiama il tecnico della radio? Mi faccio una canna. L'Olanda stessa sta ritornando indietro. Ma sì, va bene, ma ho capito. C'è una legalizzazione di fatto ormai. Fermi tutti. Beh, qualche minuto finale dedicato mentre arrivano testimonianze su testimonianze, sulle canne. Lo voglio dedicare però a un personaggio che Parenzo amerà particolarmente. Sì, il suo nome è Sante, il cognome è Carraro. Ha fondato un movimento che si chiama Licenziare i dipendenti pubblici. Carraro! Buona serata a tutti. Come andiamo? Splendidamente. Splendidamente. Quanti bisogna licenziare i dipendenti pubblici? Guardi, basterebbe licenziare il parrucchiere, il barbiere del Parlamento, sono più di uno e prendo 150.000 euro. Vabbè, quello lo sappiamo, ma i dipendenti pubblici quanti vanno licenziati? Quanti ne vanno licenziati i dipendenti pubblici? Tutti, no? Ah no, per esempio lei sa che abbiamo 8.300 direttori generali. Sì, ma quelli subito, ridurre gli stipendi subito, immediatamente. La Fiat, che era la più grande azienda italiana, aveva un unico direttore generale. Sì. Quindi se noi eliminiamo metà dei direttori generali, eliminiamo metà dei 60 miliardi all'anno di corruzione che accumuliamo in Italia. Bravissimo Carraro, la prima, io da lei volevo la prima pillola. La corruzione europea. Bravo, bravo. I conti cash in mano. Meno i 2 miliardi che ci costano 4.000 direttori generali. Bravissimo, ciao, Carraro! È insopportabile, ma dice cose giuste. Assolutamente, Carraro. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Le pillole di Sante Carraro, che ha fondato il movimento Licenziare i dipendenti pubblici. Paolo da Torino, Paolo. Sante Carraro. Mi senti? Sì, Paolo. Ciao. No, allora io volevo. Prima ho sentito quando ero ancora in auto che c'era Giovanardi che parlava. Sì, no? Sì. Allora io ho chiamato e ho detto faccio la mia testimonianza. Nel senso, 35 anni lavoro per i conti miei, sono un artigiano, fumo da quando ho praticamente 16 anni. E certo. Ho una famiglia, due figli, non ho nessuna dipendenza. Voglio dire, ma lei magari non lo sa, magari lei non lo sa, ma ha i buchi nel cervello e ha una dipendenza. Sì, vabbè, ma i buchi nel cervello magari mi vengono anche per lo smog, perché mangiamo robe non troppo sane. Cioè, mi sembra assurdo. Poi, non so, tipo a Torino, no? Se adesso io e te usciamo, ma come a Milano uguale, in un quarto d'ora troviamo quello che tutto vogliamo. Tutto troviamo, tutto. Allora che ci sia un minimo di coerenza, è abbastanza... Cioè, nel senso, la Mario... Aspetta Matteo un attimo. Chi è la... Matteo, suo figlio? È mio bimbo, sì. Saluta sì. Cruciani. Ma, non capito, ma lei si fa le canne davanti... Ciao, ciao Matteo. Lei si... gli danno fastidio le parolacce a suo figlio, no? Che gli fa? Matteo, beh, papino ogni tanto ne dice qualcuno e la mamma riprova. Per però lui è bravo, non per le per cui se le sente alla radio non c'è problema. Sì, no, ma lui ascolta. Infatti ogni tanto dice, mi dice le parolacce questo qui. Ma sì, ogni tanto, su, dai. Ma infatti. Ci perdoni, Squinzi, ci perdoni. Che dici? Ma si fa le canne anche davanti a suo figlio lei? No, zero, quello no, mi raccomando. Però cioè, non vedo oggi, più che altro oggi, va bene quando magari ero più ragazzino, forse si vedeva ancora in maniera, non so, il comunico sì. della situazione, sì. no? E oggi tutto sommato è una roba davvero che è già legale per conto suo, ma per sì dai, ma certo, ma dai. Che io trovo più sconvolgente, guarda, tipo 2 settimane fa eravamo in un cantiere, dobbiamo c'era un ragazzo veloce, allora? Sì sì, scusami, no, questo per allargarmi un po'. Questo qua ha iniziato a dire, cazzo, a me i finocchi stanno sui coglioni, sti finocchi di merda, per poi chiudere, se c'era ancora il dolce si stava meglio, cioè rendiamoci conto. Vabbè, ma questi sono dei deficienti, degli imbecilli. Ciao, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Ma io dico agli italiani, italiani che mi sentite, il problema è che lei fa la trasmissione con i miei soldi, lei e il signor Parenzi fa la trasmissione con i miei soldi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Pompino, Pompino, Pompini. Radio 24. La passione si sente.